bar, ma la cucina, nel senso che diciamo, durante il regime sovietico molti poeti, letterati, diciamo, dissidenti si ritrovavano nelle cucine private, non c'era possibilità di ritrovarsi in luoghi pubblici, cioè la vita pubblica era controllatissima, per cui c'era soltanto lo spazio privato dove poter condividere idee in maniera libera, e queste persone si ritrovavano nelle cucine, ciclicamente ognuno metteva la sua, e lì venivano scritte poesie, venivano dibattuti i grandi temi della vita, venivano scambiate notizie su chi era scomparso e chi invece rimaneva, e devo dire che anche quello è uno spazio molto umano e molto commovente, no?